tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, altro giro, altro regalo, perché questa settimana abbiamo la seconda puntata del progetto Dedicato On Air che abbiamo fatto nelle scuole. In questo caso in realtà è dedicato on stage, perché abbiamo lavorato con i bambini della scuola primaria Federzoni su un laboratorio di teatro e musica, quindi i bambini hanno creato delle storie, hanno cantato delle canzoni, abbiamo fatto un sacco di cose meravigliose insieme. E alla fine il risultato è stato registrato e lo mandiamo nella nostra trasmissione. Quindi questa seconda puntata vi iniziamo a far ascoltare un po' di musica fatta da questi bambini e poi delle storie create e inventate da loro dalle varie classi delle quinte della scuola Federzoni. Grande la quinta G che ci ha cantato Occidentali Scarma, bravissimi bimbi, è stato un percorso lungo, faticoso, ma alla fine siete arrivati in radio e sarete felicissimi, lo so, adesso starete ridendo mentre ascoltate questa puntata, quindi io non posso che essere gioiosa insieme a voi. Allora, per chi non ha ascoltato la trasmissione della settimana scorsa, che non è obbligatorio averlo fatto, appunto, noi vi spieghiamo brevemente il perché di queste puntate. Non saranno le uniche, perché ce ne saranno delle altre dove andremo a coinvolgere un'altra scuola, sempre dell'Istituto Comprensivo 5, come le Federzoni, che sono una primaria, ma andremo a coinvolgere le Testoni Fioravanti, che sono invece una scuola secondaria inferiore, dove i ragazzi fanno proprio il laboratorio dedicato on air per creazione di podcast con contenuti inventati da loro, nel senso che loro devono metterci dell'inventiva, ma poi dobbiamo sviluppare assieme quello che verrà mandato in radio. Quindi parleremo anche di tematiche importanti, ma anche di musica, di spettacolo, di momenti salienti delle loro vite, e ascolteranno le storie dei più piccoli delle Federzoni, le commenteranno, le dialogheremo insieme su queste creazioni di storie fatte dalle quinte delle Federzoni. Questo è perché il laboratorio, che è promosso dall'associazione Totem Lab, viene fatto all'Istituto Comprensivo 5 quest'anno, è aperto appunto ai bimbi delle scuole primarie solo per le classi quinte, e delle scuole secondarie per le classi prime, seconde e terze hanno aderito due classi seconde, quindi insomma sono tante classi che partecipano. Mi ci tengo a dire due parole veloci sull'associazione Totem Lab, sempre per chi non ha ascoltato la settimana scorsa la puntata, perché Totem Lab è una PS che nasce nel 2020 e ha un obiettivo principale, e cioè creare spazi rigenerativi per la comunità negli ambiti dell'educazione e della cultura di pace. In particolare l'associazione promuove buone pratiche per il contrasto a ogni forma di intolleranza e discriminazione, e lo si fa attraverso strumenti di teoria e pratica della non violenza, quindi la cultura come canale privilegiato di incontro, scambio e dialogo comunitario. Diciamo che tra gli obiettivi che si pone Totem Lab c'è la strutturazione di progetti volti a migliorare l'autoconsapevolezza, quindi insomma tanto importante il lavoro che fa questa associazione sul territorio e in questo caso all'Istituto Comprensivo 5. Quindi grazie Totem Lab, grazie anche di averci coinvolto con questi laboratori, perché per noi è sempre meraviglioso essere nelle scuole. Ora vi lasciamo a un paio di storie inventate appunto dai bimbi delle quinte delle Federzoni. Il titolo è La luce dell'amicizia. Tanto tempo fa esisteva un solo pianeta dove abitavano i popoli del fuoco e del ghiaccio, sempre in guerra fra loro. Da quando il conflitto iniziò, il sole si spense e regnò il buio. Padre mio, perché questa guerra non finisce? Figlia, bisogna vincerla. Ma c'è un altro modo per fare la pace. No, non c'è. Padre, finiamo questa guerra, ti supplico. No, figlia, sono troppo orgoglioso per perdere. Ma... Niente ma, fila in camera tua. La figlia del re del fuoco e la figlia del re del ghiaccio erano amiche e si spedivano lettere la notte. La notte del quinto giorno di aprile decisero di incontrarsi. La la la, ma che bello che spacciar! Voi siete la figlia del re del ghiaccio e del re del fuoco, non potete stare qui. Signore, signore, attenzione! Bisogna ghiacciarlo! E quando la figlia del re del fuoco e la figlia del re del ghiaccio si strinsero la mano, la luce tornò e i soldati si fermarono. La guerra è finita! Evviva! Bravi, è bellissima! Bravi! Allora, intanto ditemi i vostri nomi. Gilead, Egle, Yasin, voce narratrice, Mattia, Carina. Ok. Allora, qualcuno mi racconta com'è nata questa storia? Il tema è l'amicizia, allora, no? Il tema era l'amicizia. Abbiamo intanto pensato, cioè abbiamo fatto una storia che volevamo che tipo l'amicizia poi risolvesse tutti i problemi del mondo. È meraviglioso. E visto che anche adesso, un adesso lontano, ci sono ancora delle guerre o delle cose che abbiamo pensato che l'amicizia potrebbe risolvere questi conflitti, e quindi abbiamo dato una specie di esempio. Bravi. Alle persone che... È un pensiero meraviglioso, i conflitti purtroppo sono anche in un adesso vicino, non solo lontano, e quindi avete fatto un pensiero bellissimo. Grazie bimbi, ciao! Ciao! Il titolo è... Il viaggio nello spazio! Era un giorno come tutti. Melanin stava guardando il telegiornale dopo una lunga giornata di scuola. Ragazzi, ragazzi, il mondo è stato invaso dai robot! Ma va! Risposero ancora Michael e Jonathan. Melanin, Michael e Jonathan erano amici e stavano facendo un pigiama party perché i loro genitori erano fuori e si fidavano di Melanin perché era molto responsabile. La stessa notte sentirono un rumore dal garage, ma lo ignoravano. Melanin però era molto spaventata da quello che diceva il telegiornale e perciò si nascose nello sgabuzzino, scordandosi di chiudere la finestra della camera dove dormivano Michael e Jonathan. Videro un robot che era entrato dalla finestra. Una voce robotica parlò. «Ehi, capo, l'abbiamo catturati!» «Boom!» Michael e Jonathan si svegliarono e videro Melanin ancora stordita. Dopo pochi istanti si sveglia anche lei, molto confusa della situazione. «Cosa sta succedendo? Siamo in una capsula!» «Io ve l'avevo detto che era vero. Per colpa vostra adesso ci ritroviamo nei guai.» «Non è colpa nostra se hai lasciato la finestra aperta», disse Jonathan. Ma Michael si ricordò che la zip del suo pigiama era di ferro. «Guardate, guardate, la zip del mio pigiama è in ferro!» «Eh sì, che vuoi che faccia una zip?» «In effetti è vero, tutte le travi hanno un piccolo spazio... Era un piccolo spazio dove può entrare la zip», rispose Jonathan. Dopo molti tentativi, la cassa cedette e videro il robottino. «Ciao, chi siete?» «Siamo Melanie, Jonathan e Michael!» «Ehi, adesso vi guiderò nel nostro pianeta!» «Adesso però dovete scappare, o se no morirete!» esclamò il robottino. Dopo molte porte e cassaforti, riuscirono a non entrare in un'astronave imperiale. «Eccoci qua», disse il robottino sussurrando. Ma dove siamo? «Siamo in astronave imperiale.» Uè, scattò l'allarme in tutta l'astronave. Sentirono dei passi arrivare sempre più vicini. In un attimo si ritrovarono in gabbia. Le guardie li avevano portati in cospetto. «E voi chi siete, strani umanoidi?» «Siamo umani, veniamo dal pianeta Terra.» Dopo aver raccontato tutta la storia, il capo rimase perplesso. «Siete in arresto per essere venuti qui a distruggere il nostro pianeta.» «Cic, ciac!» Era la porta che si chiudeva. «E ora che facciamo? Adesso non credo che servirà la zip di ferro.» È il robotino! Ciao ragazzi! Ciao amico! Disse Michael. Shh, facciamo piano, vi libero, ho le chiavi! Dopo 2 ore riuscirono a partire in un'astronave senza guardie. Era piccola, ma aveva tutto il necessario per sopravvivere. Guardate! Disse il robottino. Quello è il pianeta Shadam. È fatto di roccia e polvere. Indicò un pallino rosso. È lì che sosteremo. Benissimo, io preparo il sacco a pelo. Credo che non ci siano letti belli comodi, ma ci arrangeremo con quello che abbiamo. Disse saggiamente Jonathan. Appena misero il piede a terra, si alzò su una nuvola di polvere. Vedete, il pianeta Shadam è fatto di roccia e polvere. Durante la notte sentirono dei rumori fortissimi arrivare dal cielo. Oh no, sono le guardie imperiali. Il robottino cominciò ad impazzire. Ragazzi, svegliatevi, dobbiamo scappare. In un minuto erano già in volo, ma le guardie li stavano perseguitando. Si misero a scagliare nei missili. Ne sganciarono molti, ma purtroppo uno colpì la parte inferiore della navicella e rimase solo la capsula. Aiuto! Jonathan si lanciò giù dalla capsula e riuscì a prenderlo. Era come nuotare sott'acqua. Ma cos'è questo tastiero? Disse Michael. Il robottino, senza perdere tempo, cliccò uno dei tanti pulsanti della tastiera. Boom, boom, boom! In un attimo lo spazio diventò polvere, esplosero tutte le astronavi, rimbalzarono sul pianeta per poi arrivare nel pianeta Terra. Dove eravate? Dissero ancora i genitori degli amici. A fare il pigiama party! Perché c'è una navicella dietro di voi? Boom, boom, boom! In tutto il cielo si vide un rosso fuoco intenso, era esploso il pianeta dei robot. Ok, grazie. Allora, ditemi un po' i vostri nomi intanto. Alessandro. Abdullani, Alvi, Ragad, Noel, Rami, Tabassum. Ok, e mi raccontate, questa è una storia sempre a tema fantascientifico, sì. Mi raccontate un attimo come vi è venuta questa idea, che cosa è successo? Cioè, innanzitutto ci è venuto in mente subito lo spazio perché era come un Peter Pan. Ok, bella, bella questa idea. Senti, invece, i genitori che alla fine si arrabbiano. Ma sono arrabbiati davvero o sono felici di rivedere i loro figli? Sono arrabbiati. Sono arrabbiati, eh sì, perché sono scappati senza dirglielo, giusto? Però un abbraccio poi se lo daranno. Va bene, ciao bimbi! Ciao! Skibbity wop-pop-pop, skibbity wop-pop-pop-pop, skibbity. E grazie alla quinta F e alla quinta E con le loro storie meravigliose e anche Little Big con Skibidi Wappappa. Bene, ora andiamo avanti con la nostra puntata e andiamo ad ascoltare una canzone cantata dai nostri fanciulli in classe e in questo caso abbiamo due chitarristi che sono parte dei bimbi della classe che appunto si mettono in campo con le loro capacità, perché il nostro laboratorio, come abbiamo già detto, è anche questo, cioè potenziare le possibilità che hanno già i bimbi tra le mani, in questo caso le chitarre. Avevamo due chitarristi, li abbiamo fatti suonare, chiaramente. Quindi grazie anche ai nostri due fantastici chitarristi che hanno accompagnato questo brano e anche un altro che ascolteremo più avanti. E quindi via con la quinta E che canta Il gatto e la volpe. Ultima registrazione con Erika. Ci siamo? Piano. Sì. Andiamo piano. Andiamo piano. Allora. 1, 2, 3, 4. Quando fredda mando le corri, dove vai? Se ti ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto e io la volpe, siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Puoi tornarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. Appena sveglia perde la memoria e si sente una giraffa. Invece di mangiare le solite ciambelle arcobalenate, ha una grande voglia di foglie dell'albero vicino a casa sua. Vuole staccare qualche foglia, ma si rende conto che è molto più bassa a differenza di una giraffa. Un gruppo di gnomi che stavano facendo un'esplorazione nella savana vedono lo sforzo di Caterina. Si avvicinano a lei e l'aiutano ad allungare il collo come una giraffa, con un incantesimo segreto. Gli gnomi decidono di farle far vedere il loro villaggio, che è la giungla amazzonica, e Caterina decide di vivere con loro e non più nella savana. Gli gnomi la volevano aiutare e quindi gli fanno un incantesimo per farle tornare la memoria, per abbassarle il collo e per tornare in lei. Ok, grazie bimbi. Allora, anche voi avete parlato di memoria, come il gruppo della vostra classe fa quest'anno, no? E come mai avete scelto di scrivere questa storia? Perché quest'anno il tema che ci accompagna è la memoria. Ok, come nasce questo unicorno che ha voglia di diventare giraffa e si sente una giraffa?

dedicato ai cattivi.